Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 6 settembre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro Eduradio e TV, il programma che, come molti di voi sanno, è nato e cresciuto anche grazie ai volontari del carcere della Dotta di Bologna, per essere ponte tra carcere e città, per collegare quindi due istanze, il bisogno da un lato da parte dei cittadini di avere informazioni sulla realtà del carcere e dall'altro il bisogno dei cittadini reclusi di sentirsi parte di un noi sociale che favorisce il processo di reinclusione sociale, come stabilisce anche la nostra Costituzione all'articolo 27. Io sono Caterina Bombarda alla conduzione con Antonella Cortese. Buongiorno Antonella. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti. Del nostro programma ora in onda su Radio Città Fujiko e poi su Lepida TV e anche su Teletricolore canale 636. Partiamo con la nostra rassegna stampa quotidiana. Abbiamo una notizia nazionale da Catanzaro, da killer di mafia a dottore. Ergastolano si laurea in sociologia della sopravvivenza. Lo leggo da La Repubblica, un articolo a cura di Alessandra Ziniti. Ed è la storia questa di Salvatore Curatolo, 65 anni, condannato all'ergastolo ostativo per reati di mafia, quindi non è mai uscito dal carcere, che però ha deciso di istruirsi, di leggere libri e poi anche di laurearsi in quest'anno in particolare. E lui ha dichiarato una cosa molto, molto vera all'interno del carcere. Lui ha detto: i libri sono il viaggio della mente, l'unico possibile per chi ha come unico orizzonte della vita lo specchio di cielo oltre le sbarre. E poi ha detto: i libri sono il filo che ti lega alle tue figlie che una volta che hanno una vita diversa dalla tua e per fortuna sono cresciute andando via da quel fazzoletto di terra siciliana in cui si respira solo mafia. E poi naturalmente il tempo utilizzato da Curatolo leggendo i libri, studiando, lui ha detto è stato il tempo più degno della mia vita, mi sono salvato grazie ai libri. Caterina, quindi si è salvato grazie ai libri, ha studiato? Sì, si è studiato e il 20 luglio scorso si è laureato, è stato proclamato dottore in sociologia col punteggio di 110 lode. E il titolo della tesina è Ergastolo ostativo, percorsi e strategie di sopravvivenza. Ma facciamo un passo indietro nella storia di quest'uomo. È il 23 maggio del 92 quando nelle celle di tutta Italia si brinda, nelle celle ovviamente di massima sicurezza, alla morte di Giovanni Falcone. E Salvatore Curatolo era in carcere da appena 3 mesi. E lui era nato a Caltanissetta e si era ritrovato a fare il mafioso un po' per anche per cultura familiare, diciamo, e con una sfilza di condanne per associazione mafiosa, estorsione e omicidi, e a collaborare con la giustizia non aveva mai neanche pensato. A questo punto ti chiedo, con queste premesse, quando c'è stato il cambiamento? Guarda, 29 anni dopo, con l'ergastolo ostativo sulle spalle, che come sapete è il carcere duro e un fine pena mai, dopo la laurea, appunto per l'esattezza in sociologia della sopravvivenza, lui ha trovato nello studio la forza di resistere a 12 anni di carcere duro, ma soprattutto alla prospettiva di avere un futuro. Quindi da analfabeta a laureato, come ha dichiarato lui, per non perdere tutto. E come molte persone, forse anche detenute, sanno, quando si è in carcere rimangono poche certezze, ma le uniche sono al di fuori di quelle mura sono gli affetti familiari. E per questa persona, certo che ha sbagliato, il carcere se lo meritava, chiaramente, e ci sono gli amori della sua vita, Maria, la moglie e le due figlie, che sono cresciute, si sono fatte una cultura, una è l'insegnante e l'altra, anche lei, una laurea in giurisprudenza. E un giorno lui confessò alla moglie: sai, ho l'impressione di star perdendo le mie figlie, di non avere più argomenti di conversazione con loro. E la moglie gli diede una risposta davvero esemplare dicendogli: le tue figlie sono cresciute dal punto di vista culturale e se tu parli di televisione, cioè a loro non interesserà mai nulla, non riuscirai mai a colpire il loro cuore, la loro, il loro interesse per te anche. anche per quello che tu stai trascorrendo. E fu così che lui ha dichiarato: iniziai a leggere libri e saggi, e dopo aver letto tutto quello che trovavo, il primo libro di cui cominciò a parlare con le figlie fu Guerra e Pace di Tolstoi. E da lì in poi, libri su libri su libri, con le figlie e la moglie, l'argomento di conversazione nasceva appunto dagli argomenti e dai libri, dai saggi che lui leggeva, e poi si estendeva alla loro vita familiare. Quindi ciò che ha permesso anche di mantenere il legame e anche togliere l'ansia dei colloqui, perché a volte c'è anche l'ansia di dire come stai, come è andata, e magari tu durante la tua settimana non hai fatto niente, e la persona che invece è all'esterno e non si trova ristretta ha un'altra visione, diciamo, della vita. Questo è comunque un aspetto di cui tener conto anche del carcere. Ma adesso una canzone, ci rivediamo tra poco con te, Antonella. Io lancio Somewhere Over the Rainbow di Israel Kakamakimowe, non so se ho pronunciato bene, e ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Siamo con te, Antonella, con una notizia forse degli ultimi giorni, delle ultime settimane. È morto una persona molto famosa, vero? Sì, ci ha lasciato il leggendario batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts, che a 80 anni appunto ci lascia per un problema cardiaco che poi si è andato aggravando. E come sappiamo tutti è un artista raffinato in un ambiente di picchiatori, se ricordate i Rolling Stones fin dalle origini, no? Così infatti l'aveva definito il compagno di band Keith Richards, e lui, Charlie Watts, ha preso commiato nel suo stile, quindi sobriamente, con la consueta eleganza. E per una volta sono andato fuori tempo, questo è quello che ha detto quando è stato costretto a rinunciare a un tour degli Stones per problemi cardiaci. Ed è Paul McCartney, uno dei partecipanti, dei musicisti della band dei Beatles, a esprimere sui social il cordoglio del mondo del rock. Una famiglia che ha scritto pagine di storie sublime, Stones o Beatles, poco importa, perché dove c'è genio le bacchette di un batterista uniscono e non dividono, come mostra Ringo Starr che su Twitter scrive «Dio benedica Charlie Watts». Quindi Antonella, una grande perdita non solo per i fan ma proprio per il mondo intero del rock. È proprio così, Caterina, perché la scomparsa di Watts, finora primo e unico batterista della band, lungo una storia lunghissima di 60 anni, getta un'ombra sul futuro in realtà, perché come è apparso suggerire lo stesso Keith Richards in un suo post silenzioso sul profilo Instagram, dove ha affisso la foto di una batteria senza batterista e appeso il microfono con un cartello scritto chiuso, non si sa cosa succederà in futuro. Tra l'altro, per una storica clausola contrattuale, i concerti degli Stones possono essere annullati solo in assenza di Mick Jagger o Keith Richards. Ma Tony Burrell, che è il giornalista britannico, autore di un saggio sui più grandi batteristi della storia, ha suggerito alla band di chiudere bottega per sempre e ha detto: molti complessi sono andati avanti anche dopo la morte di uno di loro. Gli stessi Stones hanno fatto così dopo la scomparsa di Brian Jones nel 69, stavolta però è arrivata l'ora di dire basta, per rispetto a Watts, perché senza di lui la fisionomia della band è cambiata per sempre, non sarà più lo stesso suono. E ci racconti allora qualcosa sui Rolling Stones? Sì, i Rolling Stones esordirono nell'arena del rock in piena era beat, come l'alternativa brutta, sporca e cattiva ai Beatles. Ne nacque subito la più scontata contrapposizione, i garbati, simpatici sudditi di Sua Maestà contro i teppisti insolenti della suburbia londinese. I baronetti del conformismo pop contro le anime dannate del rock. Un contrasto molto artefatto e molto costruito a tavolino in realtà, perché se si pensa che i Beatles erano i veri figli della working class, mentre gli Stones scaturivano dalle velleità artistiche dei rampolli irrequieti della borghesia londinese. Entrambi poi condividono ambienti e gusti musicali, infatti fu Harrison a contattare la Decca per il primo provino degli Stones, mentre i Beatles regalarono ai futuri rivali il primo singolo. Entrambi poi scivolarono negli eccessi, nelle droghe, inseguirono le sorgenti della musica americana, psicadelia, utopia hippie, contestazione e la stardom. E il primo nucleo della band si costituisce a Londra agli inizi degli anni 60, quando Mick Jagger e il chitarrista Keith Richards, compagni di scuola, fin dalle elementari, pensate, cominciarono a suonare insieme. Il debutto della band arriva nel 12 luglio del 1962 in uno dei tempi del rock, il Marquee di Londra. Poi si aggiungono nuovi membri, Billy Wyman, il bassista, Charlie Watts, batterista. La musica dei Rolling Stones è impudente, selvaggia come la loro immagine e attinge alle sorgenti del blues e del rock and roll. Infatti il primo disco è una cover che è Come On del 1963 ed è una cover di un brano di Chuck Berry. E alti e bassi per questa band eccessiva, dissacrante, anche delle strane, delle ombre. Infatti ci sono state delle morti durante un servizio d'ordine degli Hells Angels voluto proprio dagli Stones, provoca disordini che culminano nell'uccisione di un giovane spettatore. Oppure la morte di Brian Jones, ormai abbandonato al suo destino di autodistruzione e sostituito poi con Mick Taylor, che viene trovato morto nella sua piscina il 3 luglio del 1969. Insomma, una storia molto molto lunga, con tanti colpi di scena. E Caterina, tutta la settimana ascolteremo i Rolling Stones a questo punto, per omaggiarli. Quindi oggi cosa ci proponi? E oggi vi propongo Time Waits for No One, registrato nel 1979. Ascoltiamolo insieme. Here and laugh at the cheating. Time waits for no one. Buongiorno a tutti. Continuiamo le interviste per Eduradio e Liberi Dentro, proseguendo con l'intervista ad Angela Bucci, funzionario giuridico pedagogico del carcere di Bologna. Buona visione. Ti volevo fare adesso una domanda sul colloquio e il progetto educativo, perché molti detenuti, così come poi i cittadini che ci ascoltano fuori dal carcere, ci fanno una provocazione, ovvero come si valuta se una persona è stata poi rieducata? E quindi a questo punto noi ci domandiamo e ti domandiamo soprattutto, secondo te Angela, quali sono le attività o le opportunità che una persona detenuta può cogliere anche pensando al futuro fuori dal carcere? Sì, allora diciamo che la rieducazione è, come dire, un obiettivo assolutamente molto ambizioso. A me piace più parlare di risocializzazione, graduale risocializzazione partendo proprio dal carcere. Riprendo un attimo la tematica del sovraffollamento che è inevitabile, non sarei autentica, non sarei sincera se non ne parlassi, però diciamo in una condizione di perfezione assoluta la risocializzazione assolutamente inizia proprio a partire dal contesto detentivo che offre e anzi deve offrire delle opportunità appunto trattamentali importanti. Il carcere di Bologna è molto trattamentale. Noi, vabbè, a parte questa parentesi tragica pandemica, abbiamo sempre diciamo tenuto in piedi numerosissime attività appunto. Diciamo che quella cardine, quella più importante è il lavoro, che sicuramente è anche quello più ambito e quello più richiesto. Gran parte della popolazione carceraria è in stato di grave indigenza, quindi indubbiamente grazie al lavoro il detenuto si autosostiene, soprattutto se non ha una rete familiare esterna che lo possa appunto aiutare economicamente. Il lavoro però non va inteso soltanto come strumento di guadagno, ma soprattutto come strumento di ricostruzione personale e di riscatto sociale, perché grazie anche a un altro elemento importante che riusciamo a garantire per fortuna, seppure a pochi detenuti, quello cioè della formazione professionale, riusciamo proprio in quella progressione che intendevo prima ad offrire al detenuto l'acquisizione di competenze molto precise che lui, si spera, potrà spendere anche non solo all'interno del carcere attraverso l'attivazione di tirocini formativi, ma anche, perché no, nel contesto esterno mediante un primo approccio con le misure alternative alla detenzione e anche dopo l'espiazione pena. Abbiamo avuto per fortuna diversi casi positivissimi di detenuti che hanno cominciato proprio a spendersi in attività importanti lavorative all'interno del carcere per poi proseguire all'esterno anche appena terminata, per intenderci. Un'altra opportunità che il detenuto può cogliere all'interno del carcere è l'istruzione, prevista sempre dalla legge come elemento del trattamento. Noi attiviamo costantemente corsi di alfabetizzazione, corsi di scuola media inferiore, scuola media superiore, ma soprattutto da diversi anni abbiamo una convenzione importante con l'Alma Mater Studiorum di Bologna e quindi abbiamo istituito proprio in una sezione specifica dell'istituto un polo universitario che vede, diciamo, coinvolti, attivi diversi detenuti, devo dire anche fortemente motivati. Un altro elemento importante che ho citato già prima è la formazione professionale. Grazie alla collaborazione con l'ente CEFAL riattiviamo, a parte appunto la pausa Covid, solitamente dei corsi di formazione importanti, come ad esempio il corso di addetto alla produzione dei pasti, corso di igienizzazione, corso di operaio RAE, corso di operaio edile qualificato, il corso di operaio metalmeccanico, perché tra l'altro tra le lavorazioni in convenzione attive all'interno del carcere di Bologna abbiamo anche una grandissima azienda metalmeccanica che tutti questi anni ha contribuito notevolmente in questo percorso proprio di reinserimento che spiegavo prima. Quindi diciamo che questi sono gli elementi principali, ai quali si aggiungono anche le attività culturali, ricreative, sportive che vengono tenute in piedi anche grazie a una collaborazione stretta con la rete del volontariato. Quindi nell'arco degli anni anche lo stesso Rugby, per intenderci, insomma, ha sicuramente alla base una convenzione importante, ma diciamo ha uno staff che è costituito proprio da persone che a titolo volontario hanno deciso di collaborare con noi per il mantenimento di questa attività. Nell'arco degli anni abbiamo sempre fatto delle attività interessanti, si potrebbe fare ancora tanto. Abbiamo per esempio sempre collaborato con la Sala Borsa per uno scambio interessante interbibliotecario, abbiamo avuto una parentesi molto bella e interessante con un laboratorio di giornalismo, abbiamo svolto tantissime attività veramente di tipo ricreativo che hanno consentito ai detenuti, seppure non a tantissimi, per ragioni di sicurezza naturalmente e per soprattutto gli spazi molto limitati che caratterizzano la nostra struttura, però insomma in qualche modo abbiamo garantito ad alcuni di loro la possibilità di uscire da una condizione di estrema passività all'interno della camera detentiva. Quindi diciamo che questo, molto in sintesi, è più o meno il quadro complessivo di quelle che sono le offerte trattamentali che i detenuti possono diciamo, avere all'interno del nostro istituto in particolare. E adesso godetevi qualche minuto di musica. Torniamo prestissimo. Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of 69, me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. I should have known we'd never get far. Anche per oggi il nostro intervento termina qui. Ci rivediamo comunque molto presto con nuovi approfondimenti da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi di scrivere Liberi Dentro Eduradio su Facebook o su Instagram se avete domande o richieste per le prossime puntate. Ciao a tutti! Ben trovati! Proseguiamo con la rubrica di oggi. Abbiamo le lettere dal carcere a seguire, se ci state seguendo sull'Epida TV alle 13.30 oppure su Teletricolore nel pomeriggio oppure ogni mattina alle 6.30 sulla radio Città Fujiko. Abbiamo le lettere dal carcere, Una piccola storia di ordinaria sanità penitenziaria scritta da Elton. E io e Antonella ed Enea Flacco vi salutiamo, vi invitiamo a scriverci, redazione Liberi Dentro, @gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, per chi volesse inviarci una posta. A domani e restate con noi. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.